passo, freddo sull'asfalto, lo sguardo basso, ripenso a ciò che non avrei più fatto. Non rinnego il mio passato, ne prendo atto. Ho ferite sul costato, faccio un impacco, stacco quanto mi basta per sentirmi viva. Adoro il vuoto nelle strade che c'è ogni mattina. Adoro perdermi tra sogni, tra musica e china. Adoro quando ti rialzi più forte di prima. Se c'è una strada io scelgo il giro più largo. Affondo il piede ma non sprofondo nel fango. Attorno a gente si vende per un traguardo e crolla quando il tempo presenta il proprio pedaggio. Sta giorni che passano, lasciano foglie a terra, ci cascano gli elmetti ma fuori c'è ancora guerra. E sparano, sparano finché giungeremo al baratro. Sanguineremo a tratti ma nel cuore ancora palpita. Sono fragile, sono fragile, sono fragile, sono fragile. Sono fragile ma troppe lacrime ho versato sopra queste pagine. Sono fragile, sono fragile, sono fragile, sono fragile, sono fragile. Sono fragile ma è troppo facile rifugiarsi dentro una voragine. E se domani è un altro giorno aspetterò la luna. Perché quel sole non si vede se non hai fortuna. E nessuno si cura se sei un'insicura. Se la vita è dura chiudi la portiera e mettila sicura. Se avessi meno fantasia credere a me sia, ascolterei chiunque pur che sia. Ma per fortuna mia non c'è liturgia che placchi le mie ansie e spenga il lutto tipo eutanasia. Corri che il tempo passa e manco te ne accorgi. Diventa il cambiamento che vorresti oggi. Cambiando approcci, trovando dei nuovi appoggi. Non dando colpa agli altri del peso che spalla porti. E se fosse davvero che il mondo ti ha distrutto, fagli vedere tu non sei fatto l'asciutto. A volte basta un sorriso a scansare il brutto. Sentirsi pieni anche se ci hanno rubato tutto. Sono fragile, sono fragile, sono fragile, sono fragile. Sono fragile ma troppe lacrime ho versato sopra queste pagine. Sono fragile, sono fragile, sono fragile, sono fragile, sono fragile. Sono fragile ma è troppo facile rifugiarsi dentro una voragine. E quante volte ci siamo tirati indietro. Quante volte una scusa cavava il peso. Quante volte hai reagito, ti sei arreso. Quante volte, troppe volte credo. La vita è sempre stata stronza, per forza. Scova debolezze, le rafforza, le sforza. E fuori tutti ridono e tu non sai manco vivere. Si spacca la tua scorza, ti resta soltanto scrivere. Stringi forti i lacci delle scarpe facci. L'abitudine a vestire stracci, gli abiti d'organza agli altri. Noi siamo nudi e non contiamo i passi sopra una montagna che scaliamo anche se abbiamo i piedi stanchi. Ma è un altro giorno che affrontiamo. È un altro giorno che affondiamo e poi abbracciate e risaliamo. È un altro giorno come tanti, noi siamo quello che siamo. Anime fragili col cuore in mano.